Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Il primo brano di questa sera in diretta qui su Radio Stonato. Infatti Barbara ha detto non diciamo certe cose in diretta, ma io e Barbara stavamo disquisendo allegramente sul mio stare male della scorsa settimana, perché ho preso il virus, quello intestinale, quello che vi fa venire il mal di ossa, il vomito, chi più ne ha più ne ha. Vi assicuro che ho passato un fine settimana col water. Però no, abbiamo perso Barbara. Non mi dire che ti ho perso. Del mio virus intestinale che mi ha fatto sognare. Ho visto cose che voi umani nemmeno potrete immaginare. Un viaggio di quelli pazzeschi, ragazzi. Che poesia. Che poesia, guarda, ragazzi. Il sabato del villaggio proprio. Allora, di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Allora, già io in apertura di trasmissione l'ho detto. Questa sera cercheremo di sviscerare un po' la Corea del Sud. E prima, nel parlare nel fuori onda con Barbara, stavamo già disquisendo sul nome di questa bellissima città metropolitana da 3 milioni di abitanti, no? 3 milioni e mezzo. Sì, è una città grande, una città, insomma, come grandezza tipo Milano, insomma, per renderci conto, la città di Busan o Pusan, si può trovare in tutti e due modi scritti, o con la B o con la P. O con la B e con la P. Qua c'è la prof che c'è dentro la nostra Barbara, ragazzi. Mi hanno detto che bisogna dire così, lo devo. Niente, è stata... Allora, torniamo a parlare per la seconda volta di Corea, perché ci siamo sentiti, non mi ricordo quando l'ultima volta, però abbiamo già accennato a come si organizza un viaggio in Corea e ora entriamo dentro all'itinerario coreano che abbiamo svolto io e mio marito a Natale. Uh-huh. E tra l'altro la raccontiamo in un periodo che è proprio il periodo clou per la Corea, perché insomma io l'ho visitata a Natale, perché l'avevo detto già l'altra volta, essendo insegnante ho delle vacanze che sono molto pilotate e stare in quei paesi d'estate è assolutamente, cioè per me almeno non mi piace quel tipo di clima troppo caldo, dunque preferisco farlo d'inverno. Non ti piace il caldo umido, dai Barbara? No, non mi piace il caldo in generale, l'umido ancora di meno. Comunque, insomma, non lo sopporterei assolutamente. Dunque, preferisco farlo col freddo, molto freddo, perché l'ho detto anche l'altra volta, è stato veramente tanto freddo durante questo viaggio. Però, ecco, per chi ha la possibilità, pensare alla Corea come un viaggio primaverile è il massimo, insomma, con la natura in fiore, eccetera. La Corea non è solo Seul. Seul è una tappa fondamentale su cui devo ancora scrivere, in realtà. Però altre due città che ci sono piaciute tanto, che abbiamo voluto mettere nel nostro itinerario di 15 giorni, sono state appunto, e l'altra è Gyeongju. Io faccio chapeau rispetto alla pronuncia, ma non so esattamente, insomma, Busan probabilmente va bene, Gyeongju lo dico all'italiana, insomma, non so se poi qualche accento lo sbaglio. Come sei partita, quindi, cioè, come l'organizzazione? Tu raccontaci che siamo curiosi. Sì, allora, rispetto all'organizzazione si trova tutto su un post specifico dove ho raccontato come poter... Infatti ne abbiamo parlato un po' di tempo fa sull'organizzazione. Ne abbiamo parlato, esatto. Okay. Esatto, per quanto riguarda come arrivare a Busan, noi ci siamo arrivati attraverso un treno veloce, insomma, di quelli super veloci, ed equivalente alla nostra alta velocità, e si può raggiungere via Seul con un viaggio di 2 ore e mezza circa, o via Gyeongju, come abbiamo fatto noi, con l'autobus circa un'oretta, insomma, di autostrada. Dunque è una meta assolutamente comoda, raggiungibile. È una città metropolitana veramente grande e multi possibilità, nel senso che vi si può vedere, insomma, le vari mercati, templi, palazzi avveniristici, centri commerciali in cui andare non tanto per comprare merce, ma non sei particolarmente interessato, quanto per arrivare alla cima del 15° piano, magari vedere uno spettacolo bellissimo che magari la città... Abbiamo perso Barbara. Allora, ragazzi, facciamo così che recuperiamo Barbara e ci andiamo ad ascoltare, anzi, un po' di pubblicità e della musica e poi ritorniamo in diretta. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Loredana Bertè in diretta qui su Radio Stonata. Cosa ti aspetti da me? Anche lei è stata grande protagonista del Festival di Sanremo del 2019, ma siamo riusciti dopo mille peripezie a recuperare la nostra Barbara per colpa naturalmente della connessione mia. Naturalmente diamo a Barbara gli onori dell'ospite, quindi tutta colpa mia. E stavamo parlando di Corea del Sud, Barbara, vero? Vabbè, noi stavamo parlando di mare, di sole, di altro, però fuori no, però stavamo parlando di Corea del Sud, di questa bellissima città di 3 milioni e mezzo di abitanti che ha visitato Barbara durante le vacanze di Natale, che si chiama Busan o Busan, come volete voi, e ci stava un po' raccontando appunto cosa vedere, cioè ci stavi parlando di questi altissimi grattacieli più che altro. Sì, è una città ultramoderna con grattacieli altissimi, avveniristici, in alcuni casi appunto c'è la possibilità, tipo se sono delle torri commerciali, di salire fino alla cima e poter beneficiare di un bellissimo panorama, insomma, soprattutto notturno, insomma, pieno di luci, eccetera. Ma a proposito di mare, perché stiamo parlando di mare fuori onda, è anche una città appunto marittima, perché è adagiata su una baia e ha un porto commerciale molto importante, nonché delle spiagge lunghe di color sabbia, proprio di color ambra, veramente allettanti. Noi abbiamo visitato abbiamo visitato anche un tempio molto particolare, pronuncia una cosa tipo Endong Temple, che è un tempio unico nel suo genere, perché appunto è realizzato su una serie di scogliere, e per visitarlo devi attraversare un viottolo dove ci sono tutta una serie di statue, soldati con dei tratti animaleschi che sono dei protettori, e per poi scendere sulla scogliera dove c'è appunto questo tempio, è molto importante insomma per la religione buddista ed è sempre molto ricco di turisti. Cosa molto bella è che per visitare questa città, così come per tutta la Corea, noi ci siamo mossi solo ed unicamente con mezzi pubblici, senza affittare macchine, senza dover prendere praticamente mai taxi, e tutto attraverso una fantastica tessera che abbiamo fatto all'inizio, proprio in aeroporto, appena arrivati a Seul, che ti dà la possibilità di ricaricarla ogni qualvolta ne hai bisogno e di utilizzarla in tutti i mezzi pubblici della Corea, compresi anche i taxi. Tu puoi pagare i taxi con questa tessera e avere comunque degli sconti. E dunque tutte le attrazioni che abbiamo visitato le abbiamo fatto muovendoci in totale libertà con questa tessera, insomma, veramente conveniente. Una parte della città che io ho amato particolarmente è un quartiere in cui è stato realizzato un progetto di riqualificazione urbana molto importante. Anche qui, perdonatemi la pronuncia perché non ne sono assolutamente sicura, ma una cosa tipo Engchon Cultural Village. Voglio vedere chi ti corregge su ste pronunce, Barbara. Qualcuno c'è e ce ne rintesta, visto che siamo sotto quaresima, va benissimo. Comunque viene definita dalle guide turistiche, così insomma, che ripeto ce ne sono veramente poche al momento sulla Corea del Sud, tradotte in italiano e attuali, la Santorini coreana. Questo perché andate a vedere il sito, lo scoprirete attraverso le foto che abbiamo fatto. Praticamente si arriva alla cima di questa ripidissima salita attraverso, per fortuna, un mezzo pubblico, un piccolo pulmino. Il pulmino numero 2 mi ricordo, alla cima di questa salita alla sinistra c'è un'enorme scuola elementare, un grossissimo edificio, e già questo dà l'idea che comunque la cultura, diciamo, è un elemento pregnante di questa zona, di questo quartiere. sulla destra, esattamente di fronte alla scuola elementare, si vedono tutta una serie di casette coloratissime, dunque sembra di stare in Sud America, così come in qualche isola della Grecia o anche a Panarea, per dire, ma enorme, una casetta al fianco all'altra, e questo è il Cultural Village, un quartiere appunto urbano che è stato riqualificato, probabilmente stava diventando un po' un quartiere ghetto, e il comune, insomma la politica, ha deciso invece di investire culturalmente in questo quartiere, e ha colorato le case, ogni strada con un colore diverso, ha creato nelle case abbandonate delle piccole gallerie d'arte, dei murales, ed è piacevolissimo camminarci, perché in ogni angolino trovi comunque insomma qualche particolare che ti fa innamorare di questo luogo. È molto faticoso camminare, perché appunto è un salita, discesa, il punto diciamo a cui tutti confluiscono, e i turisti confluiscono, ma anche la gente del luogo, così, è un belvedere che dà sulla baia di Busan, dove c'è la statua del piccolo principe con la volpe, e lì c'è una fila lunghissima perché i turisti cercano insomma di farsi tutti la foto con vicino accanto a questa statua. Ma Busan è anche molto interessante per quanto riguarda i mercati, sia il mercato di pesce, perché essendo appunto una città portuale ha un enorme mercato di pesci, dove praticamente vedi le vasche con pesci vivi a mo' di acquario, che tu acquisti, te la prendono dalla vasca quello che vuoi e ti porti a casa. Però sei sicura di mangiare del pesce fresco, dai? Sì, diciamo che lì lo vedi che è veramente fresco, lo puoi anche mangiare nei ristoranti di sopra, oppure puoi mangiarlo a mo' proprio di pesce crudo, perché loro hanno questa usanza, spiccicandolo in una sorta di street food, camminando lì nella baia, nel porto. E ha dedicato molto spazio comunque sull'articolo allo street food, al cibo da strada. Sì, perché la Corea ci ha dato questa grossa soddisfazione, insomma, di quello di poter riuscire a mangiare lo street food, cosa che non sempre siamo riusciti a fare, un po' per nostri timori riguardo alla salute, insomma, perché sai, puoi star male durante il viaggio, e anche se hai la copertura sanitaria e tutto attraverso l'assicurazione non è piacevole, e allora siamo stati sempre abbastanza timorosi in alcuni posti, tipo la Birmania, così, di mangiare all'aperto, perché insomma vedevamo che non era proprio in linea con i nostri standard igienici, cosa che invece in Corea abbiamo fatto, perché la Corea è un paese veramente molto vicina come standard a quelli europei, e ci siamo permessi di mangiare insomma tutto quello che ci veniva in mente a qualsiasi ora, perché si può mangiare veramente di tutto, ed è veramente un aspetto culturale molto, molto interessante quello dello street food. E anche a Busan, in un market, allora, i due market, quello del pesce e il junkie market, invece, che è un mercato enorme dove puoi trovare di tutto, ecco, nel junkie market puoi trovare strade, veramente street food, ma veramente nel senso di strade, piene di bancherelle, di signore che quasi come se fosse casa loro, ma sono all'aperto, cucinano ciò che di più tipico è della loro cucina, insomma. Ci sono le fotografie comunque a testimoniare anche il tuo racconto, Barbara. Lo dico per chi è sul sito, sulla pagina Facebook di Radio Stonato del viaggio, e cliccando i link dell'articolo di Barbara ci potete seguire quello che Barbara sta raccontando dalla sua viva voce qui in diretta. Infatti no, è fantastica questa cosa, cioè ci sono queste signore sedute che cucinano, Barbara, no? Esatto, sì, proprio sembrava, è molto bello, perché questo è un po' in tutta la Corea, abbiamo notato, ci sono tantissime trattorie, cioè chiamiamole trattorie insomma, e le cucine sono praticamente all'esterno, cioè tu vedi queste signore che cucinano fuori dal negozio dove tu andrai a mangiare, cioè la cucina all'esterno, vedi lei che fa, insomma, ravioli al vapore o altro, tu sei invogliato da questa signora che cucina, poi entri dentro e lì c'è la tavola calda, diciamo, con i tavoli più o meno spartani, ma tutto veramente direi pulito, insomma, non ci è capitato nulla, insomma, in questo viaggio dal punto di vista di dissenterie o malesteri a livello di stomaco, eccetera, cosa che invece in altri viaggi siamo un po' incappati, a volte invece l'abbiamo evitata, ma sempre stando molto attenti. Un'altra chicchina, insomma, che noi abbiamo trovato è stata una bookstore alley, si chiama Bosdong, mm-hmm. anzi, che è proprio una strada di librerie. Allora, noi per girare Busan ci ha favorito tantissimo il fatto che io per puro caso abbia preso in una metropolitana, la prima volta che dovevamo orientarci con la metro, una guida di quelle gratuite che si trovano insomma nelle città, mm-hmm. dal titolo Busan Tour Guide. E da lì praticamente, cioè, attraverso questa guida noi siamo riusciti a trovare anche cose non così conosciute, che non eravamo riusciti a cogliere insomma attraverso dei blog eccetera di viaggio, e questa è stata una delle cose che abbiamo trovato attraverso questa piccola guida. È una strada di librerie che è limitrofa proprio al Gianti Market. Infatti, camminando prima dal Gianti Market siamo poi approdati alla Bookstore Alley, ed è una strada strettissima, piccolissima, abbastanza corta, cioè non troppo lunga, mm-hmm. piena zeppa di librerie. Anche lì ci sono delle foto, anche questa praticamente più è all'aperto che all'interno, e la libreria, ecco, cioè i mobili della libreria sono costruiti dai libri stessi, nel senso che sono impilati quantità enormi di libri, e il commesso che praticamente si muove tra una colonna e l'altra, che insomma passano da terra, arrivano fino se a... Se cadono addosso a qualcuno rischiano di ucciderlo comunque. ma è anche abbastanza pericolosa, insomma, però no, veramente caratteristico, insomma. È mm-hmm. una città che a me ha colpito molto, insomma, mi è piaciuta molto, non posso dire se più o meno di Seul, comunque è una città che vale assolutamente la pena in un itinerario coreano. Così come anche l'altra, su cui ho scritto un altro post, che è Jeonju, che è un po' la città invece storica della Corea, una città un pochino più piccola, non così metropolitana come Busan, né tanto meno Seul, che però ha due o tre cose, tra cui delle tombe molto particolari, mm-hmm. di cui potete vedere le foto sempre nel sito, che sono praticamente dei complessi costruiti anticamente sotto la dominazione dei Silla, e attualmente sito dell'UNESCO, che sono l'equivalente coreano delle piramidi. Praticamente passando attraverso i parchi del centro di Jeonju si vedono delle escrescenze, delle sorte di montagnole, io le chiamavo le case degli hobbit, sembravano tutte perfettamente, come posso dire, con l'erba assolutamente tagliata tutta pari, insomma, con la loro capacità, insomma, di essere precisi, bene, eccetera, e sotto queste escrescenze, che sembrerebbero delle collinette naturali, in realtà ci sono delle tombe, e appunto la funzione è un po' quella della piramide. Praticamente all'interno di questi grossi vuoti venivano deposti i corpi dei discendenti dei Silla, e insieme ai corpi tutti, insomma, le digne sepolture, dunque gli ornamenti, oro, argento. Una può essere anche visitata. Dunque, non fermiamoci alla Corea pensando solamente che sia Seul, ma proviamo ad allargarci e soprattutto cerchiamo, insomma, di progettarla in un periodo come questo, perché insomma guardo un po' con invidia chi riesce a vedere tutto quello che ho visto, magari fiorito, insomma, nella splendida natura primaverile. Ok. Barbara, io prima di lasciarti ho solo una domanda, che ritornando invece al primo articolo, di questa bellissima sopraelevata che porta al mare, perché prima con te stavamo parlando fuori onda di mare, e quindi volevo saperne qualcosa di più. Che mi racconti di questa bella sopraelevata? Ah, che è stata una bellissima camminata, praticamente sono spesa sull'acqua. Uh-huh. Allora, per il nome andate a guardare sempre. Infatti. Saprei solamente dire walk, che alla fine, ma tipo Jerun Walk, è un ponte lungo, insomma, sarà ora, non mi ricordo, ma tipo un paio di chilometri, che è una vera e propria strada costruita sul mare, che dà la possibilità di camminare dalla spiaggia ad un isolotto. Mm-hmm. È costruito, insomma, con un'architettura architettura venieristica, moderna, tutto illuminato, e chi vuole può, dimitrofo all'accesso di questo ponte c'è anche una funivia che dà la possibilità di passare, cioè di attraversare la baia da una parte all'altra in maniera sopraelevata, cosa che io non ho fatto perché non amo molto le funivie e soprattutto poi di notte la guardavo abbastanza, però è tutto molto molto suggestivo e anche questa è una cosa da fare, e consigliere di farla di notte così come l'ho fatta io, perché insomma il buio dell'oceano, le luci dei grattacieli intorno e questo lunghissimo ponte un po' simile Calatrava, insomma trasparente, tutto illuminato, è veramente suggestivo, insomma da, insomma, da un bel effetto alla città, ecco. Ok. Barbara, che dire, grazie, sei stata gentilissima, scusami ancora per settimana scorsa che ti ho abbandonata. Ci sentiamo per la prossima, chissà, forse se riesco a scrivere qualcosa per Seul oppure addirittura dopo Pasqua, dopo No, speriamo prestissimo, Barbara, speriamo che ritorni prestissimo, che vi voglio risentire tutti voi qui su Radio Stonata, tutti non solo turisti, e spero presto dall'Australia di avere anche Marco, proviamo. Anche noi speriamo di risentirlo presto, perché poi ci sentiamo spessissimo io e lui via messaggi. Ciao a tutti, grazie Barbara, ciao, buona serata, ciao. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it